Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è da spostare una macchina, disc jockey. C'è da spostare una macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. E a proposito di macchina, siamo in carreggiata, basta una manutenzione in corso, abbiamo bisogno di un pit stop, una puntata per la messa a punto del nostro cervello. Se volete collaudarlo, restate. Occorrente un cervello, una faccia, un dito. Allora, vi presento il nostro collaudatore, il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, bentrovata. Professore, pronto? Ah, io sono quasi pronto. Quasi pronto, perché nei confronti del cervello noi abbiamo un timore reverenziale. Siamo perfettamente consapevoli che ci tiene, per così dire, in pugno. È determinante, infatti, per la nostra crescita intellettuale, psichica, emotiva, lavorativa. È il nostro tratto distintivo, insomma, cogito ergo sum, professor Barbanti. Sì, e noi siamo tutti preoccupati della sua efficienza, di mantenere la sua efficienza. Innanzitutto, il mantenere l'efficienza del cervello è un problema sentito. La maggior parte delle persone teme più di perdere la memoria o di impazzire, tra virgolette, nello stress, che di avere un infarto. È un problema vero, questo perché nel cervello avviene uno scontro tra generazioni. La vecchia generazione, la paleocorteccia, che anziché essere la generazione saggia, era la generazione istintiva del nostro cervello, e la nuova generazione, che invece è la neocorteccia, che, strano a dirsi, diverso da quello che succede nella sociologia, è quella più rigorosa. E poi è un problema vero perché, come abbiamo già detto altre volte, c'è un social jet lag, cioè il cervello ci chiama per dormire, ci chiama per riposarci, ci chiama per alimentarci, e noi più delle volte, parafrasando Biannacci, al vieni qui diciamo no, io no. Terzo punto, è un problema molto sgradevole quello della inefficienza del cervello, perché una volta terminato il tentativo tramite il suo portavoce di far capire che noi non stiamo in perfetta forma, il cervello ricorre al corpo. E tramite l'ipotalamo, che è questa strana struttura che sta sopra le ghiandole e dentro il cervello, vengono cambiati i nostri ritmi e il corpo ci avverte che qualcosa non va. E allora, se posso fare una chiusura rivolta agli ascoltatori, il discorso dovrebbe essere questo. C'è qualcuno tra chi ci ascolta che ha problemi di malgoverno, non parliamo di politica, ma di malgoverno neurologico, e cioè con un ministero degli interni troppo forte e inflessibile con i suoi prefetti, che sono i nostri visceri. Cerchiamo di vedere se è così e di dare in questo caso più voce al ministro degli esteri, cioè alla nostra capacità relazionale e quindi a implodere meno, borbottare meno tra di noi e parlare più con gli altri. Quindi si faccia avanti chi sente la testa pesante, chi ce l'abbia troppo leggera, chi ce l'abbia dolente, chi avverte il rumore di fondo del funzionamento del cervello, diciamolo così, e anche quelli che sono convinti di avere sintomi fisici che della testa partono. È il 28 settembre 1997 e sono le 11 in punto del mattino. Alla giostra del Trono, a due passi dal trenino dei Carpazi, la macchina per impastare i dolci impasta i dolci. Nello stesso momento, su una panchina di Place Villette, Félix L'Herbier scopre che ci sono più connessioni possibili nel cervello umano che atomi nell'universo. Professor Barbanti, quindi possiamo iniziare? Abbiamo al telefono un amico che porta spesso la testa tra le nuvole, diciamo sugli 8000 metri e oltre, e specie in inverno. In linea con noi infatti abbiamo il piacere di avere Simone Moro. Ciao Simone. Ciao Nicoletta. Allora, hai i piedi per terra? Ho i piedi per terra, stranamente. Stranamente, perché tu vai e porti la tua, dicevo, porti la tua testa tra le nuvole, è vero? Sì, la porto fra le nuvole mantenendo i piedi per terra, che può sembrare un assurdo, ma insomma utilizzando sempre la zucca, perché tu sai benissimo che ho fatto quasi 50 spedizioni alpinistiche che durano 2-3 mesi l'una, e se moltiplichi 50 per 2,5 ottieni uno spazio temporale che supera i 10 anni. Ebbene, se sono ancora vivo dopo 10 anni che sto a 8000 metri, non è solo per fortuna, certo. È anche perché la testa, anche se è tra le nuvole, la faccio funzionare e la faccio anche funzionare abbastanza bene. Anzi, bisogna farla funzionare molto bene per portarla a quelle altezze. Professor Barbanti, a lei. Allora, noi abbiamo detto, dammi una testa, una faccia e un dito e ti dirò come stai. Ma a questo punto i nostri ascoltatori si chiederanno cosa c'entrano la testa, la faccia e il dito con il nostro cervello. E sono certa che se lo chiederà anche Simone Moro, che penserà di essere un po' caduto in un'imboscata. Quali informazioni possiamo dare a Simone e anche ai nostri ascoltatori? Intanto gli ascoltatori ricordiamo due cose. La prima è che in faccia abbiamo 36 muscoli e la seconda è che in 32 millisecondi noi abbiamo già visto gli occhi. Gli occhi e il sopracciglio sono la parte più importante del nostro corpo, tant'è vero che nei giornali per rendere anonima una persona vengono messi i quadratini sugli occhi e non sulla bocca. Il secondo punto è che per capire come stiamo, nel colloquio mi dirai come stai oggi, ma l'espressione mimica e anche le spalle in realtà sono la scatola nera dei nostri ultimi tempi. Un po' come il cosiddetto cronotachigrafo, se non sbaglio, la scatola che hanno i camionisti. E allora, la domanda è sostanzialmente questa. Guardare innanzitutto, magari in una foto che ci hanno fatto quando noi non lo sapevamo, o se no guardandoci allo specchio, l'apertura dei nostri occhi. Noi negli occhi vediamo le palpebre, vediamo le rughe, vediamo le borse sotto gli occhi, ma guardiamo quanto sono aperti. C'è un muscolo che si chiama muscolo tarsale, che è un muscolo particolare perché è innervato dal sistema nervoso simpatico, quello dell'allerta, ed è quello che ci sbarra lo sguardo. Quindi possiamo già dire che guardandoci e vedendoci gli occhi più aperti del solito, ovviamente entrambi, questo è un indice di tensione nervosa e quindi di uno stress presente in noi. Un secondo aspetto, anche il colore dei nostri tessuti, evidentemente spiega come stiamo. Pensiamo all'aspetto terreo del soggetto depresso. L'aspetto tendente invece all'eccesso di colorazione della persona iperattiva e l'aspetto lucido, perché sudato, del soggetto ansioso. Ma poi, un punto, e qua non si tratta di spigolature, c'è vera scienza sotto, c'è tanta letteratura, quelle rughe che gli inglesi chiamano le glabellar lines, le rughe tra le sopracciglia, sì, che sono state fotografate e studiate in tantissimi disturbi neurologici, addirittura dai parkinsonismi, alle cefalee croniche. Insomma, se ci guardiamo lì e magari confrontiamo nostre vecchie foto, potremmo capire come stiamo andando negli ultimi tempi. Allora, con queste indicazioni chiediamo a Simone di guardare una sua istantanea e di raccontarci in diretta che cosa vede. Allora, in questo momento, siccome a casa mia non ho istantanea, la immagino ovviamente, mi è venuta in mente l'istantanea, sentendo anche le parole che il vostro esperto ha detto fino adesso, ed è un'istantanea che ho anche pubblicato sul mio libro, in cui dopo 5 giorni, tra l'altro di bufera, che ero bloccato in una tenda, guardo il mio compagno che mi ha fatto la fotografia e ho gli occhi particolarmente spalancati e aperti dentro la tenda, nonostante fosse giorno e quindi non è che ci fosse una ricerca di luce o di maggiore visibilità. E siccome il vostro esperto ha detto che è sintomo di tensione, ovviamente lì ricordo che la tensione era a fior di pelle, quindi diciamo si sposa esattamente con la descrizione che ha fatto. Possiamo naturalmente farlo anche noi guardando una fotografia, o possiamo anche individuare questi segni, questi tratti, queste indicazioni che ci ha dato il professor Barbanti sulla persona che ci sta accanto, a cui vogliamo bene, il nostro compagno, la nostra moglie, un nostro collega di lavoro. Professor Barbanti. Questo è vero, facciamolo prevalentemente sugli altri e poi magari guardiamo anche un po' sotto, non la bocca, non le rughe intorno ai solchi tra le guance e le labbra che insomma si accumulano nel corso degli anni, ma guardare per esempio la postura delle spalle. Noi diamo tantissimo valore, secondo me esagerato, al collo, la colonna sembra essere la causa di tutto, ma in realtà quanto sono alte le nostre spalle? Cioè, quanto tendiamo col tempo a incassare il nostro capo tra le spalle? Questo è per esempio un sintomo tipico dell'ansia. C'è un motivo molto chiaro i muscoli che hanno la funzione di elevare le spalle convergono in zone cerebrali dove arrivano importanti messaggi del trigemino, importanti messaggi anche della nostra emotività. Ed è praticamente impossibile essere perturbati e non sollevarle, o viceversa, averle sollevate e non essere abbastanza perturbati. Tant'è vero che la cosa più difficile non è fare l'inspirazione, è fare la espirazione e abbassarle. Provate a farlo, intanto chiediamo a Simone Moro. Ma Simone, tu sei un atleta e immagino che tu abbia spalle possenti, larghe, forti, muscolose. No, perché non voglio neanche descrivermi come un bronzo di Riace, poi uno, tutti quelli che mi vedono mi dicono: ah, ti pensavo diverso, con la barba più mastodontico, più maciste. E allora io dico sempre: avete mai visto uno che vince una maratona e pesa 100 kg? Di solito sono tutti mingherlini, e il fatto di allenarsi tanto ovviamente mi porta anche volutamente a avere il ventre muscolare, si chiama, cioè le dimensioni dei miei muscoli non troppo esageratamente sviluppati, anche perché i muscoli hanno bisogno di sangue, sì, e di ossigeno, e in alta quota l'ossigeno che io posso offrire ai miei muscoli è pochino, e quindi io posso solo dire che mi dicono che ho il collo lungo, ma secondo me è perché tengo le spalle al loro posto e non sono uno ansioso, sono uno colorito in faccia, perché stando sempre all'esterno e facendo il lavoro che ama, ecco, non è che abbia stress, certo, o tensioni esistenziali tali che mi portano a incupire, anzi sono sempre uno qui con il sorriso. Tutto questo influisce, esattamente come spiegava il nostro esperto, anche sulla mia postura. E certo, perché c'è il nostro stato d'animo condiziona la nostra postura, il nostro essere nello spazio e viceversa. Ma il professor Barbanti continua il suo test proponendo di usare un dito. Il nostro amico Simone Mora ha dita, professor Barbanti, lo sa, belle forti, dite che si arrampicano, ma usiamo il dito per fare una sorta di test di autovalutazione della nostra testa. Ah, questo veniva fatto molto nel passato e si è completamente dimenticato. Pensi che una volta veniva fatta la percussione cranica, cioè il neurologo faceva ciò che viene fatto dallo pneumologo sulla schiena, sulla testa, e se noi premiamo alcuni punti della testa abbiamo informazioni molto importanti. Allora, la prima pressione che dico di fare è possibile esercitarla mediante il pollice, e nella parte interna del nostro occhio, nella parte interna e alta dell'orbita, per meglio dire, quindi dove l'orbita confina con il naso, esattamente sotto l'inizio del sopracciglio, c'è una piccola cavità, una piccola cavità ossea. Spingiamo a fondo. Se sentiamo dolore, e insomma qualche, proviamolo dall'una o dall'altra parte, ovviamente, da un occhio e dall'altro occhio, è verosimile che noi siamo emicranici. Cosa c'entra l'emicrania in questo discorso? Beh, c'entra innanzitutto perché è uno dei disturbi più frequenti della specie umana, secondo perché l'emicrania viene fatta lievitare abbondantemente dallo stress. E cosa capiamo da questa manovra? Capiamo, come uso dire io, se il ferro da stiro è ancora caldo, e cioè se la terminazione trigeminale, che è la frusta usata dall'emicrania per lamentarsi, è stata usata da poco oppure è lì ancora per partire. Quindi prima cosa, qualcuno ha dolore? Tu hai fatto un test, io l'ho fatto con i due pollici. Io l'ho fatto. Ma sto bene. Io, siccome non ho mai avuto mal di testa in vita mia, perlomeno sotto 7000 metri, sono contento di vedere che quasi mi spacco il naso, ma non mi fa male. No, attenzione al naso, perché poi dobbiamo chiamare un altro dottor. E continuiamo, come professor Barbanti. Se fossero tutti come Simone Moro, lei chiude. Mi sente? Sì. Ecco, dico, se fossero tutti come Simone, noi chiuderemmo bottega, perché essendo obiettivamente un Superman, perché fare quelle cose a quelle altitudini, con quegli elementi climatici, deve avere i nervi assolutamente ferrei. Si sale, credo, più con la testa che con le mani e con il corpo. Ma l'altro aspetto che dico invece di dire a chi ci ascolta è di prendere un dito, questa volta l'indice, e perpendicolarmente spingerlo sul trapezio. Cos'è il trapezio? Il trapezio è il muscolo che unisce il nostro collo alle nostre spalle, sul margine superiore. Spingerlo a fondo. Beh, questo è veramente la scatola nera del nostro stress. Infatti a me fa male. e farlo dall'una e dall'altra parte. È bello che molte volte noi non ce ne accorgiamo. Dicevamo all'inizio di questa trasmissione, cercare di ridurre l'influenza del ministro degli interni e far prevalere quella degli esteri. Di tutte queste cose noi ce ne accorgiamo veramente molto poco. E quindi chissà chi ci ascolta e che ha provato a sentire questa dolenzia, a volte che è come una vera e propria scossa che si irradia anche al braccio. Sì. Dobbiamo far pensare che non è necessariamente un problema fisiatrico, quindi di postura, ma è un problema di quella posizione all'uovo che gli ansiosi assumono e che a volte assumono i soggetti con depressione, che invece, cosa strana, le spalle le portano in avanti. Poi ci sono i mangiatori di spade, il termine non è campato per aria, così venivano definiti nel passato gli psicorigidi, quelli con i colli iperdritti, gli impettiti anche quando vanno a letto. E anche in questo caso, per la messa a punto del nostro, della nostra bolide di Formula 1, qualcosa bisognerebbe fare. Simone, tu hai provato, io ho un male soprattutto nella parte destra, chiedo ai miei ascoltatori naturalmente di fare questi due test, dito sotto il sopracciglio e dita sul trapezio per raccontarci, ma intanto tu? No, non ho sentito dolore, anche se devo essere sincero, io sono tornato da mezz'oretta, da 20 km di corsa, e quindi magari non ho la muscolatura più rilassata, perché anche se si muove sostanzialmente il trene inferiore, ma per la coordinazione del gesto atletico muovi parecchio le spalle, se fai tanti chilometri insomma è mosso anche tanto il collo e spalle, però ecco dolori. Senti, dolori niente, intanto un bel 20 chilometri sulle spalle, che si può dire, sì. Così che non, sì, ma tanto la cosa più difficile quando uno decide di andare a correre è mettersi le scarpe, la ginnastica, e lasciarsi la porta alle spalle. Quello è il momento più difficile, bisogna riuscire a tenere duro, perché poi quando sei fuori dalla porta parti e corri. E molto spesso noi quando non andiamo non è perché iniziamo a correre e ci fermiamo, proprio non cominciamo. E se ti abitui poi ad andare tutti i giorni tanto, poi lo fai volentieri. Vedi, il professor Barbanti diceva che si sale con la testa, e tu dimostri, Simone, quanto la testa sia fondamentale per il nostro cambiamento, per decidere anche nel quotidiano di occuparci del nostro benessere, di chiudere quella porta e quindi chiudere un po' con la sedentarietà, le cattive abitudini, e no, vincersi, andare oltre per provare nuove strade che ci portano benessere. Ma Simone, scusa, tu che vai avanti e indietro, sali e scendi, non avverti dei segnali? La tua testa non ti dà qualche segnale? Perché? No, di sicuro, avverto dei segnali. E come ho detto prima, non ho mai sentito mal di testa sotto i 7.000. Ma lo dicevo non per fare l'arrogante, ma perché... il professor Barbanti probabilmente mi darà ragione, la scatola cranica è l'unica parte del corpo umano che non è espandibile, e quindi quando io in alta quota ho una densità del sangue e ho degli edemi locali, chiamati anche edemi cerebrali nel caso del capo, che quindi aumentano il volume e quindi richiederebbero che il cranio si espandesse per contenerlo, perché il sangue diventa più denso, ebbene lì il mal di testa è il primo segnale che il corpo umano ti manda quando non sei ancora acclimatato, quando sei andato in un'alta quota e hai questi edemi locali che sono espansioni cellulari che cercano di inglobare magari più sangue, quindi più ossigeno, ecco lì il mal di testa diventa quasi insopportabile e può diventare anche degenerativo, perché poi certo, diventa un edema cerebrale. Professor Barbanti, spesso ci sono persone che quando salgono in quota vanno in montagna, vanno in aereo, avvertono proprio che la testa scoppia. In questo caso? Guardi, allora intanto l'emicranico sopra i 1500 metri sviluppa spesso mal di testa, cioè la classica altitudine dei posti dolomitici in cui si va a sciare, il primo giorno la pagano. Un soggetto normale incomincia ad avere, può avvertire mal di montagna a partire dai 4000 metri, poi se riescono a essere persone straordinarie come Simone Moro lo tengono a quei livelli altissimi, anche perché non dimentichiamoci che mentre Simone Moro è lì non è solo un fatto certamente vero di pressione, viscosità e così via, ma c'è la tensione, la concentrazione, un cervello che consuma tantissimo energie con pochissimo ossigeno. Gli vorrei chiedere se ha le vertigini, evidentemente no. Mai. Quelle che noi chiamiamo vertigini sono la fobia del vuoto. Lui ce l'ha, mai. Simone, vorremmo capire. No, dimmi. Infatti sono d'accordo, molta gente mi dice: guarda, io non verrei mai perché ho le vertigini. E io ho detto: guarda, secondo me tu non hai le vertigini, è proprio la fobia del vuoto, perché a parte poche persone che non riescono a... È la paura di volare. Sì, allora dico: no, io non andrei mai. Non io andrei devo mai, dire che lo dico sempre a Simone quando lo sento al telefono prima della diretta: guarda Simone, già a me solo pensare alle tutte le cose che fai, insomma, non riesco neanche a dirle, a pronunciarle. Simone, io vorrei catturarti una volta e portarti qua in studio, che sarebbe un avvenimento grande, per cui io ti aspetto. Allora devi farlo prima di dicembre, perché poi a dicembre io riparto, arrivo in spedizione e allora ci dobbiamo mettere d'accordo. Allora, invitato ufficialmente Simone Moro, per la gioia di tutti i suoi ammiratori che stanno scrivendo cose straordinarie su di te. Grazie a Simone Moro. Test the spalla baby, 1, 2, 3, test the spalla baby, 1, 2, 3, test the spalla baby, 1, 2, 3. Paola, buongiorno e benvenuta. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Che succede? Buongiorno a tutti voi, grazie. Ci dica, Paola. Premendo sul lato sinistro, sopra il naso, tra l'occhio, non sento nulla. Dal lato destro un dolore forte. Soffro spesso di mal di testa, invalidanti, 2-3 giorni stesa a letto, buio, eccetera. Passa con docce calde e medicinali, chiaramente. Allora, fermiamoci qui, il professor Barbanti ha preso nota, grazie Paola, rimanga con noi. Avete la testa vuota, la testa tra le nuvole, la testa che vi fa male. Se vi state accorgendo o pensate che la vostra testa, il vostro cervello perda un po' i colpi, restate, lo collaudiamo, niente paura. Essere e benessere. Per amore io perdo la testa, la lascio cadere dal collo perché ho le mani per prenderla mentre che rotola tutta amorosa nel viso per te. Se per amore la testa mi vola, la lascio volare da sola perché le mie braccia si allungano fino a raggiungerla tutta gioiosa nel viso per te. La nostra ascoltatrice, facendo il test, si è accorta che soffre di emicrania, ma sotto un sopracciglio avverte questo dolore. E ci ha dato anche un'indicazione. Fa delle docciature calde, quindi degli impacchi caldi, per calmare gli attacchi di mal di testa quando sopraggiungono. Dunque, la signora Paola probabilmente fruisce dell'effetto rilassante della doccia calda, che in senso stretto forse su quella zona potrebbe andare, ma su quella zona solo, meglio il freddo, ma siccome l'emicrania ha una base scatenante spesso rappresentata dallo stress, lavare via la tensione con la doccia calda è quello che le capita. Volevo solo dire che lei ha scoperto, Paola, di avere un filo scoperto nel nervo sovraorbitario. Questo filo scoperto rende conto del fatto che i soggetti emicranici stanno sempre attenti ai colpi d'aria. Noi medici un po' ci arrabbiamo quando dicono: ah, scusi, a me scatena l'aria condizionata. In realtà, pensandoci bene, hanno talmente tante sensitizzazioni, così si dice, periferiche, che questo nervo, che adesso immaginiamo come la coda di un cane, può essere facilmente schiacciato sia da una pressione, terribili le maschere da su, per esempio, che a volte è stimolato da correnti fredde. E purtroppo mi trovo costretto a dire: sì, è vero, a volte l'aria condizionata in loro fa male, il filo è scoperto. Abbiamo in linea anche Piero dalla provincia di Reggio Emilia e Giuseppe dalla provincia di Ascoli Piceno. Piero, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Come va il collaudo? Il collaudo, io ne ho fatto uno solo perché ero troppo preso dal primo collaudo per ascoltare anche il secondo. Comunque. Quale ha fatto? Ho fatto il primo, quello orbitale sotto le sopracciglia, e io sento un leggero dolore. Non soffro molto di mal di testa costantemente, ma mi viene sicuramente con l'aria condizionata, e questo ha già risposto il professor Barbanti, il professore 2 minuti fa. E quando bevo del vino, bevo un po' di poco, io non sono un grosso bevitore, se bevo del vino, mal di testa scatenanti, e anche uno possono dire ma non bere il vino, ma non berlo è un dispiacere, è certo, non è vero. Niente. E ho trovato che per risolverlo prendendo del tachidol e il mal di testa passa tutto. Ultimamente finito di mangiare prendo due Teridon e non mi viene mal di testa. Quindi si autocura, professor Barbanti, Piero. Dunque, intanto si chiama come me e viene dalla mia regione, anzi io vengo dalla sua e sono anche emicranico. Allora, il prodotto che lui prende dopo pranzo è un farmaco che serve per aumentare lo svuotamento dello stomaco. Lui, senza sapere, ha detto una cosa che ha una profondissima base scientifica. In realtà quel prodotto gireva il mal di testa non perché faccia muovere lo stomaco, ma perché contrasta una sostanza che si chiama dopamina, che nel cervello emicranico ha una strana sorte. Ce n'è poca in alcune aree, durante i periodi in cui uno sta bene, e si libera all'improvviso quando uno ha l'attacco, come se si creassero le pozzanghere nei periodi in terreni piuttosto aridi. Quindi lui fa sicuramente bene a fare quello che fa. C'è da dire che il test, che è evidentemente un test empirico, ha però una sua base, direi, solida. In quelli che hanno gli attacchi molto frequenti toccare fa molto male perché il ferro da stiro è ancora piuttosto caldo, in chi li abbia sporadici fa un po' male ed è il caso di Piero. Abbiamo Giuseppe dalla provincia di Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere al professore, andiamo un attimo fuori tema, per la concentrazione, lo stress, perché ho poca memoria, cosa si potrebbe fare? Qual è qualche consiglio utile? Grazie Giuseppe, questo non è un fuoritema, perché oggi nel collaudo che facciamo del nostro cervello vogliamo capire come un po' come funziona, se risponde bene, se ci governa bene, che rapporto abbiamo con lui. E naturalmente, come si fa con un amico, vogliamo anche ascoltare i suoi lamenti e quindi parliamo anche di mal di testa, ma anche di efficienza del nostro cervello. Noi vogliamo invecchiare bene con lui e se abbiamo la sensazione che il nostro cervello perde i colpi, che invecchi un po' e quindi non ricordiamo le parole, non ci vengono le parole in un discorso, cadiamo in lapsus, qualche cosa in noi si attiva e nasce subito un po' di agitazione. Professor Barbanti. Beh, allora, se volessimo ricorrere ai consigli piuttosto semplici di farmaci, che sono noi in realtà non farmaci ma integratori, i derivati del ginkgo biloba, l'acido alfa-lipoico, il coenzima Q10, ma sono nomi impronunciabili. Vediamolo, potrebbero essere aggiunti, ma vediamolo in un'altra ottica. Io lo dico come un mantra, bisogna creare soste, bisogna creare pause, perché altrimenti il motore è surriscaldato, nessuna macchina può andare 24 ore al giorno sempre. E quindi vediamola anche così, non solo diamo al cervello qualcosa in più, semmai ricorrendo a questi utili integratori che i medici ormai conoscono bene, ma diamo al cervello l'ossigeno per bruciarlo. Ossigeno per bruciare il proprio combustibile, e l'ossigeno lo possiamo fare solo se facciamo ispirazioni profonde, ma le ispirazioni profonde le facciamo solo se ogni tanto tiriamo il fiato, e il fiato lo tiriamo solo se ogni tanto facciamo delle pause. In uno slogan, riprendiamo a respirare. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Luca Avoledo, il dottor Avoledo naturopata, che scrive anche per il nostro Daily Lab. Buongiorno dottor Avoledo. Buongiorno agli ascoltatori di Essere Benessere e ai suoi ospiti. Abbiamo bisogno quindi di pause e abbiamo bisogno anche di un po' dei suoi consigli. Beh sì, ascoltavo come sempre con attenzione quello che diceva il professor Barbanti e ha parlato di coenzima Q10, che quando si parla di testa e in particolare di dolori di capo, di mal di testa, è coenzima Q10, è vero, un nome un po' strano, si sente poco, ma è un forte antiossidante che si trova nei mitocondri, che sono le centraline energetiche delle cellule. Diversi studi però hanno dimostrato che quando viene assunto come integratore a dosaggi quindi piuttosto interessanti, diversi studi anche condotti con i crismi della scientificità, quindi contro placebo, hanno visto che assunto in capsule previene gli attacchi di mal di testa, in particolare di emicrania, assunto a scopo preventivo. È in grado questa sostanza, questa coenzima Q10, di ridurre più della metà del numero dei giorni di emicrania di chi ne soffre periodicamente. Quindi prevenire meglio che curare. Hai ancora il mal di testa? Sì. Dice il dottore che questa cefalea rischia di diventare cronica. Pazienza. Buonanotte. Buonanotte. La mia testa! Oh, la bella vita del filibustier. Eccola qua, calda, spugna. Il capitano ha un terribile mal di testa. Non bisogna far chiasso. Dottor Avoledo, siamo tornati insieme per un rimedio profumato. Per un rimedio profumato, sì. Se non vogliamo assumere per bocca niente, nemmeno di naturale, si può provare a fare un massaggio con oli essenziali. In particolare ce ne sono due da utilizzare insieme, in abbinamento, che sono analgesici, quindi antidolorifici e antispastici, quindi sono perfetti proprio nelle cefalee muscolo-tensive, quelle da stress con contrazione muscolare dei muscoli del viso, del collo. Si possono abbinare questi due oli essenziali, quello di lavanda, lavandula angustifolia, e quello di menta piperita, quindi anche due aromi molto conosciuti. Si diluiscono due gocce di ciascuno di questi in un cucchiaino di olio di base, di olio vegetale come quello di mandorle dolci, e si può massaggiare tempie e fronte per un sollievo rapido, soprattutto nelle cefalee muscolo-tensive. I risultati possono essere interessanti e soprattutto non si evita di ingerire prodotti per bocca. E in chiusura, dottor Avoledo? In chiusura, se parliamo di testa, di dolori di testa, non possiamo non menzionare un rimedio che ci piace molto, di cui abbiamo parlato anche in altre occasioni, che è il partenio. E che piace anche al professor Barbanti, ricordo. Il professor Barbanti lo conosce molto bene, anche perché è un fitoterapico tradizionalmente molto noto, si usa da centinaia di anni nell'ambito dell'erboristeria e della medicina popolare, ma dagli anni 70 in poi è stato anche molto ben studiato, anche qui con studi molto seri, e si è visto che il partenio diminuisce frequenza e intensità degli attacchi, soprattutto però se assunto a scopo preventivo. Al bisogno funziona molto meno bene, si assume quindi per periodi abbastanza prolungati. Al bisogno prolungati. Usiamo la lavanda e la menta piperita, per esatto. Giocare agli anticipi, partenio o il coenzima Q10. Vede che ho imparato. Ma è molto interessante. Ho fatto una sorta di collaudo, vede, della mia testa. Grazie al dottor Avoledo. Grazie a voi, buon proseguimento. Buona giornata, professor Barbanti. Ha visto? Funziona allora. Innanzitutto, che bello sentire dire adesso ai soggetti meccanici: mangia cose che contengano per esempio il coenzima Q10, piuttosto che quelle terribili liste di cibi vietati che non servono a nulla. Una volta il meccanico andava dal medico e tornava denutrito. Si sta avvicinando l'ora di pranzo, io ho dimenticato una manovra da far fare, magari sarà poi per la prossima puntata. Un dito dentro la bocca e sopra i molari inferiori, nella parte della nostra mandibola che va verso l'alto, dove il dentista fa l'iniezione tronculare. Schiacciateli dentro, se avete le mani pulite, tra un po' si va a pranzo, forse un'oretta. Quel muscolo porta la mandibola in avanti, è dolente nelle cefalee tensive, ma secondo alcuni studi ha una dolenzia anche connessa un po' con i livelli di aggressività. Questa non è fantamedicina, il nostro tessuto muscolare ha le strette dipendenze del tessuto nervoso e si preattiva. Stefano, buongiorno, da dalla provincia di Venezia. Benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare una domanda, sì, professore. Vada. Più che altro anche una considerazione. Sì. Ogni sabato e domenica, quando io non lavoro, ho un'emicrania pazzesca che solo con l'auli riesco a far guarire. Da spaccare, come si dice, la testa contro, da sbattere la testa contro il muro. Stefano. Esatto, l'unica alternativa è lavorare anche il sabato e la domenica. Vede? Professor Barbanti, l'emicrania da weekend, potremmo dedicare una puntata a questo tema, abbiamo un paio di minuti scarso, un minutino scarso, per dare qualche consiglio. È frequentissimo, io ripeto sempre consigli di questo genere, cercare di diluire il passaggio, ridurre il gradino tra il venerdì e il sabato, nel senso, se il sabato decidiamo di svegliarci più tardi, non facciamo troppo tardi, però o bagordi il venerdì sera, perché poi quello che succede è che si mescolano magari pizze con gli amici, una birra in più, il relax, il sabato mattina un caffè in meno perché intanto non vado a lavorare, un'ora in più, e allora in questa patente appunti che ti viene sottratta per eccesso di infrazioni, togliamo qualche inflazione. Ricordiamo però che quando ci servono cure, i beta bloccanti, medicine sicurissime, in piccole dosi, date dal medico, anche dal medico generico, ci aiutano a smussare, bloccando l'eccesso di adrenalina, questo gradino che ci fa sobbalzare questa buca e che ci fa saltare il mal di testa proprio.

un suo bisogno, una sua necessità, e noi adulti dobbiamo cercare di capire, a seconda dell'intensità, che cosa ci vuol dire. Per cui ci può richiedere, dal tipo di pianto, ci può richiedere di voler essere attaccato al seno, come lei stava dicendo, oppure se questa sua necessità non viene accolta, può avere un pianto più prolungato, più forte, e comunque la soddisfazione del bisogno è l'obiettivo che il bimbo in quel momento ci sta chiedendo. Allora, dottoressa Rossi, approfitto di lei come traduttrice simultanea del vagito di un bambino per proporre ai nostri ascoltatori da casa un pianto caratteristico, tipico proprio del bambino dei primi mesi di vita. Lo sentiamo insieme, ciascuno di noi a casa può indovinare per che cosa si nasconde dietro questo vagito, quale bisogno vuole comunicarci il nostro bambino, e poi naturalmente lo commentiamo insieme alla dottoressa Rossi. Sentiamo. Dottoressa Rossi, che pianto potrebbe essere questo? Ma quello che stavamo accennando prima, il latentino vuole avere la vicinanza e l'allattamento della mamma, e questo è un modo per avere subito l'attenzione da parte dell'ambiente, che deve essere pronto a cercare di soddisfare questo bisogno. Certo, ha una caratteristica particolare, mi sembra, no? Inizialmente è di bassa intensità e diventa più forte, sempre più ritmico. Certo, e questo è, potremmo dire, la caratteristica del pianto per il cibo. Poi sì, avremmo delle altre tonalità e altre intensità per segnalare altri bisogni, come il dolore. C'è un ulteriore tipo di pianto che è frequente tra la seconda e la terza settimana di vita, quando il bambino è proprio piccolino, il pianto delle cosiddette coliche gassose. Sì. Lo ascoltiamo insieme, così dottoressa Rossi, lei ci dà poi delle indicazioni, ce lo legge, in modo che noi da casa possiamo poi riconoscerlo. Dottoressa Rossi, sono molto frequenti le coliche al pancino nei bambini. Io mi ricordo che anche il bambino, di fronte, quando ha male alla pancia, muove anche le gambe, no? Sì, e soprattutto la situazione che rende tutto più complicato è il fatto che sembra essere un bambino che è inconsolabile, che non smette di piangere. Questo di solito avviene nel tardo pomeriggio, nella prima serata. Sì, hanno proprio le ore, cioè proprio sì, l'ora tipica della colica. Infatti poi in quello è importante poter leggere da tutti questi pianti che abbiamo sentito e capire come poterlo aiutare, perché ha una difficoltà dove anche oltre l'aiuto del pediatra, se dovessero essere più forti, molto può essere fatto anche dalla mamma, dalla persona che lo accudisce, cercando di rassicurarlo. Dottoressa Rossi, io la ringrazio. Se avessimo bisogno, se il bambino piange, possiamo chiamarla? Grazie a voi. Grazie dottoressa, buona giornata. E per oggi è tutto, un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.